Per quanto riguarda il porto di Ravenna, noi sappiamo che è percorso in modo abbastanza regolare, più o meno una volta al mese, una volta ogni 2 settimane, da queste navi della compagnia israeliana Zim. Fino adesso diciamo che ci avevano rassicurato che erano materiali civili, quindi alimentari e cose del genere. In realtà fin da febbraio 2025 era stato sequestrato un carico di forgiati, e questa era appunto una situazione che avevo seguito appunto anche con tutta un'inchiesta per Altra Economia. Quel carico per fortuna era stato sequestrato. In realtà per un carico sequestrato ne sono passati tanti altri, e in particolare quest'ultimo caso che fondamentalmente ho scoperto tramite accesso agli atti, si tratta di un carico di munizioni che è passato il 30 giugno dal porto di Ravenna, grazie appunto a degli accessi agli atti, alla Capitaneria di Porto, alle Dogane, eccetera. Ho scoperto che questi carico di munizioni, che era diretto ad Haifa ed effettivamente è arrivato a Haifa, proveniva dalla Repubblica Ceca. A questo punto ho chiesto come mai le dogane hanno fatto passare il carico, se si trattava di munizioni, quindi di fatto avevano bisogno di un'autorizzazione UAMA, quindi dell'ufficio predisposto alle autorizzazioni per il traffico di armi presso il Ministero degli Esteri. L'UAMA ha risposto dicendo che non era stata richiesta autorizzazione e quindi non sapevano fondamentalmente perché questo carico era passato. Le dogane mi hanno confermato che non era stato, questo carico è passato senza autorizzazione dell'UAMA, perché loro hanno fondamentalmente giustificato questo transito appellandosi all'articolo 10 bis della legge 185/90. L'articolo 10 bis dice che per i trasferimenti intracomunitari, quindi da paese europeo a paese europeo, basta l'autorizzazione del primo paese, quindi in questo caso la Repubblica Ceca. Però io ho intervistato un avvocato, Andrea Maestri, del foro di Ravenna, e lui appunto leggendo la legge, l'interpretazione corretta è che questi trasferimenti intracomunitari ovviamente non possono andare a Israele poi. Non fa parte della comunità europea. Mi sembra abbastanza, no? È ovvio. Quindi di fatto le dogane hanno dato un'interpretazione a nostro parere errato, perlomeno da come dice anche l'avvocato, tanto che il regolamento di attuazione della legge 185 del 90 dice che per la successiva esportazione verso destinatari situati in stati terzi è richiesto il consenso dell'UAMA. L'UAMA non può dare questo consenso perché dal 7 ottobre del 2023 praticamente non dà più nessuna autorizzazione, per fortuna, a ogni tipo di esportazione verso Israele, perché sta violando i diritti umani, sta perpetrando un genocidio e sappiamo quello che sta facendo nei confronti della popolazione di Gaza. In realtà appunto questo poi non è l'unico transito di armi dal porto di Ravenna, perché anche ad agosto dei giornali, in questo caso un giornale britannico, un giornale irlandese, avevano scoperto che da Capodistria passavano lo stesso degli armamenti, passando da Venezia, poi Ravenna e poi fino ad arrivare ad Haifa. E oltretutto questo appunto non è, come dire, l'unico coinvolgimento con Israele. Anche lo stesso sindaco Barattoni ha citato questo progetto Anderserk. Esatto, il progetto Anderserk, questo in pratica coinvolge in realtà l'autorità portuale, quindi in questo caso non parliamo di dogane ma parliamo dell'autorità portuale sempre di Ravenna. È un progetto europeo finanziato dai fondi Horizon e coinvolge l'autorità portuale di Ravenna, quella di Lavrio in Grecia e quella di Valencia e Spagna, tanti altri paesi e anche Israele, quindi l'unico paese, anche qui, l'unico paese extraeuropeo che viene finanziato da fondi europei. L'autorità portuale di Ravenna, io mi sono letta tutti i documenti pubblici, pochi, sono solo 7 i documenti pubblici che sono nel sito della Commissione Europea e tutti gli altri sono segretati, quindi è un sito anche molto sottoposto a riservatezza. È un progetto che ha una valenza militare, di fatto, perché tutti i documenti che ho letto si dice che verrà utilizzato dalla NATO, dal progetto Frontex di controllo delle frontiere, quindi insomma ha una valenza militare evidente. Israele partecipa con il Ministero della Difesa, quindi non stiamo parlando di associazioni caritatevoli israeliane, stiamo parlando del Ministero della Difesa, incriminato per crimini contro l'umanità. La Rafale Advanced System, che è un'azienda militare israeliana che fornisce l'esercito, e anche questa perpetra, diciamo, il genocidio, e l'Università di Tel Aviv, anche questa comunque coinvolta. volta con le sue facoltà, no? Con i suoi esperimenti. L'autorità portuale di Ravenna non ha un ruolo defilato in questo progetto, ha un ruolo molto importante, siede nel comitato di controllo fianco a fianco col Ministero della Difesa israeliano. Anche tutto l'aspetto, se vogliamo vedere quello etico, ma se vogliamo vedere anche egoisticamente quello della sicurezza portuale, qui si tratta di informazioni sensibili che vengono condivise con dei partner israeliani, con dei partner di un paese che sta perpetrando un genocidio, la sicurezza dei nostri porti. C'è tutto l'aspetto degli esperimenti. Per adesso hanno fatto gli esperimenti in Israele con queste tecnologie, che poi sono le stesse tecnologie che vengono usate dai comandi d'assalto israeliani navali, quelli che hanno anche assaltato la flottiglia, altre tecnologie che servono a scovare gli intrusi, che vengono utilizzati normalmente da Israele per impedire anche l'avvicinamento di navi umanitarie. Sono stati sperimentati nei siti Rafael con andirivieni di partner europei che vanno là e collaborano, e saranno adesso da dicembre 2025 saranno sperimentati anche nei porti di Ravenna, Valencia e Lavrio. Ricostruendo queste vicende, che sensazione ti sei fatta su quanto il governo italiano sia consapevole di queste cose che accadono? Cioè, non può non sapere. Esatto, assolutamente sa tutto, perché ovviamente queste sono cose che passano anche dal governo. Il governo è informato, ma non da adesso, da mesi e mesi, almeno dal 2023, perché il progetto Undersec è dal 2023. I traffici sono continui, tra l'altro il porto di Ravenna ha aumentato la collaborazione con la compagnia israeliana Zim da qualche anno, quindi è una cosa anche abbastanza recente. Quindi il governo è assolutamente complice, è assolutamente consapevole di tutto. L'ufficio delle dogane dipende dal Ministero della Finanza, l'autorità portuale dal Ministero dei Trasporti, l'UAMA dal Ministero degli Esteri, quindi sono questi ministeri che sono in qualche modo responsabili di quello che sta succedendo. Insomma, sottolineo che un team di giuristi e esperti e docenti multidisciplinari di tutta Europa si stanno mobilitando, tra cui Nicola Perugini, Ruba Salì, insomma si stanno mobilitando in tanti contro il progetto Undersec, per fermare la partecipazione, per espellere in pratica gli enti israeliani. E quindi si chiede veramente una risposta forte, anche perché il 16 settembre, adesso noi faremo una manifestazione il 16 settembre a Ravenna, perché è previsto un workshop, un laboratorio, insomma un convegno pubblico su Undersec. Io ho chiesto di poter partecipare come giornalista, loro mi hanno detto no, non è più pubblico, prima era pubblico, poi no, e partecipano soltanto i partner, tra cui appunto gli israeliani. A questo punto verranno a Ravenna dei partner negli israeliani incriminati di crimini contro l'umanità? Insomma, mi sembra una roba veramente folle, e quindi noi faremo una manifestazione. Il comune ha detto che non è d'accordo con questo progetto, bene, però insomma bisogna, oltre che dirlo, bisogna anche fare qualcosa di più, insomma.